Europa 24. Ancora buongiorno, partiamo dal ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, che dice: non mi aspetto una rapida convergenza di vedute sul sistema europeo di salvataggio delle banche con i soldi dei contribuenti o con i soldi, anche con i fondi anzi, dello scudo ESM. In un documento scritto visto dal quotidiano tedesco Handelsblatt, Schäuble ha affermato che non bisogna fare i conti con un rapido accordo politico nell'Eurogruppo. Allora, su questo e sui lavori dunque del pomeriggio sera di questa giornata di Eurogruppo, il servizio di Sergio Nava. Si riparte da Bruxelles. Oggi il ministro uscente dell'economia Fabrizio Saccomanni approda all'Eurogruppo in un'atmosfera a dir poco surreale. Nei fatti un addio, visto che il suo profilo è da escludere quale prossimo titolare di via 20 settembre. Saccomanni porta con sé un primo germoglio di ripresa e un outlook sul rating finalmente stabile. La base su cui costruire, anche se lo stesso ministro, intervistato a Sky TG24, qualche paletto al nuovo governo lo mette. Il primo è una frecciata diretta a Matteo Renzi, che sembra intenzionato a ridiscutere i vincoli di bilancio comunitari. La polemica sul superamento del tetto del 3% del deficit è sterile e per la richiesta di modifica del Fiscal Compact si può sempre provare, ma la situazione di partenza non è molto incoraggiante. Nessun paese lo ha chiesto e l'Italia ha messo il trattato in Costituzione, dice Saccomanni, prima di lanciare l'avvertimento. Stiamo attenti che quando si cambia il passo, alle volte diciamo il primo effetto è che ci si ferma, pensando a quale passo poi assumere. A mani vuote l'Italia si presenta invece sul fronte degli aggiustamenti strutturali, quei 4 decimali nel rapporto deficit-PIL che avrebbero aperto l'ultimo spiraglio della clausola di flessibilità europea per gli investimenti produttivi restano nell'elenco delle promesse mancate. Fonti della Commissione hanno sostanzialmente confermato a Radio 24 che non c'è alcuna speranza di ricevere entro oggi informazioni dal Tesoro sulla spending review. Per il nuovo esecutivo la strada è già in salita. Bruxelles chiede riforme strutturali serie e conti a posto con l'abbattimento del debito. Poi si potrà pure parlare d'altro. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. L'Europa e gli sprechi alimentari. 90 milioni di tonnellate ogni anno vengono perse, gettate, non utilizzate. Oggi inizia una serie di viaggi di Radio 24 contro gli sprechi alimentari. Al mondo quasi un terzo del cibo prodotto finisce nella spazzatura. Accade nei paesi in via di sviluppo, ma anche in Europa, dove ad essere sprecati sono 90 milioni di tonnellate all'anno, scarti agricoli esclusi. Il tema, si capisce, è etico e pratico insieme. Commissione e Parlamento europei stanno affrontando il problema da qualche anno, ma è una questione su cui possono legiferare fino a un certo punto. Si può lavorare sull'efficienza della catena alimentare, si può facilitare la redistribuzione gratuita di cibi prossimi alla scadenza, si possono anche imporre dei target di riduzione dei rifiuti, ma non si può costringere un cittadino a non riempirsi il frigorifero di verdura che non consumerà. Molto del lavoro passerà quindi da campagne informative, che la Commissione ha già confezionato e messo a disposizione sul proprio sito. Molto altro dipenderà dai singoli paesi dell'Unione. E per una volta, a partire lancia in resta, non sono solo i paesi nordici, conferma Camelia Bucatariu, consulente della FAO per lo sviluppo delle politiche contro lo spreco di cibo. Abbiamo in Europa vari gruppi di paesi che hanno già iniziato e già lanciato dei progetti a livello nazionale. Sto pensando all'Italia, sto pensando alla Francia, alla Spagna che già hanno iniziato l'anno scorso, ai paesi nordici che hanno iniziato i loro sforzi ancora prima. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Bene, con questo è tutto per l'appuntamento con Europa 24 e ora è tempo di sentire insieme le notizie dallo sport. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.